La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Mi sembra, così ricordando memoria, mi sembra che sia dal 4 luglio che io vi dico: ma cosa andate a fare in queste spiagge esotiche? Andate a Gatteo Mare. Gatteo Mare non ci sono gli squali. All'Asio Beach non solo ci sono gli squali, avete sentito, ma hanno girato anche Ten con Bo Derek, il più brutto film mai girato nella storia del cinema, dopo quello che ho visto qualche giorno fa. La sera di Ferragosto, dopo aver visto Studio Aperto, ho peggiorato la mia situazione guardando Figlio delle Stelle, un film con Alan Sorrenti. Cioè, io penso che se i fratelli Lumière avessero visto quel film avrebbero distrutto la loro prima macchina per fare il cinema. Ma non siamo qui per parlare di questo, la bella estate, oggi. Oggi dobbiamo parlare di paesi molto piccoli. Perché paesi molto piccoli? Perché quando siamo noi piccoli, magari sogniamo di fare gli esploratori. Io non ho mai sognato di fare l'esploratore, io ho sempre sognato di fare il serial killer e ci sto riuscendo, poco poco. Invece voi magari da piccoli leggevate i libri, la tigre della Malesia, queste cose così strane, o magari avevate visto anche lo sceneggiato in televisione. Chiamate all'800 24 00 24 per raccontarmi di quando siete stati in Borneo o in Malesia, perché non mi interessa assolutamente. Non chiamatemi per dirmi di quando siete stati a New York, non mi interessa. Io ho letto tutto quello che si può leggere su Andy Warhol, ho visto tutte le puntate di Sex and the City e anche tutti i film di Woody Allen ambientati a New York, quindi non mi interessano i vostri racconti. Dovete chiamare l'800 24 00 24 per dirmi di quando siete stati, che so, Ceragetto, che non so dove sia, ma me l'hanno scritto. Fedro sulla nostra pagina Facebook della Bella Estate mi ha scritto che lui va a Ceragetto. Voglio racconti di paesi piccolissimi, ma non paesi famosi, cioè Vigata, che non esiste, è un paese famoso perché ne parla Camilleri. Luino, che invece esiste, è un paesino famoso perché ne ha parlato Piero Chiara. Paesi veramente sconosciuti. Ci sono poi dei paesi, ma cominciamo dall'inizio, cominciamo da una parte più esotica, sentiamo. La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura. Vi ricordate quando eravate tamarri nel 92-93 e ballavate queste cose a Rimini? Ve lo ricordate? Adesso avete il fegato rovinato dalle pasticche, bene, ben vi sta. Ma non è questo che voglio parlarvi, voglio parlarvi appunto di esotismo. Avete sentito quali e quante località strane, esotiche ha citato ed elencato questa signora? Chissà, sarà centroamericana, non si sa. Bene, adesso io do la risposta che questa signora si merita. Ripartiamo col pezzo, grazie. La Paz, Ghisolfa, Manaus, Sasso Marconi, Santiago, Borgo Panigale, Bogotà, Modena Sud, Havana, Modena Nord, Quito, Magliana, Tegucigalpa, Portonaccio, Tijuana, Agnano, Lima, Candela Caglianello, San Juan, Usmate Velate. Qui non si può andare oltre Usmate Velate, non si può andare. Sono tutte località che sentiamo spesso nei comunicati, nei notiziari sul traffico, ma esistono veramente? Queste sono per me le nuove colonne d'Ercole. Io posso parlarvi di Usmate Velate. Usmate Velate è alla fine della tangenziale est. Voi dite: ma arrivo a Usmate Velate, cosa ci saranno? Delle porte, delle colonne, un tempio, qualcosa? No, non c'è nulla. A un certo punto la tangenziale scompare, diventa una stradina normale, ma così all'improvviso non ve ne accorgete nemmeno e vi trovate in mezzo alla Brianza, che è anche un bel posto pieno di verde. Però se uno dice: beh, parto da Ragusa, uno di Ragusa dice vado su in Lombardia a vedere Usmate Velate. No, non venite, non c'è niente da vedere. Quindi voi avete saputo che cosa c'è, o meglio cosa non c'è a Usmate Velate, dovete dirmi cosa c'è invece negli altri luoghi citati sempre nei comunicati sul traffico. Girando sempre su YouTube, dove io passo le mie giornate ormai, ho trovato un comunicato molto particolare che fra l'altro riconoscerete perché è stato preso proprio da questa emittente, da Radio 24, e qualche buon tempone si è divertito a mescolare un po' le carte. Informazioni per chi viaggia. La situazione più critica sulla 14 Adriatica, con 10 metri di coda tra Pesaro e Brescia Centro verso Salonicco, per un tamponamento in cui è rimasto coinvolto un cantiere in direzione di Napoli. Si consiglia di uscire o a Milano o a Modena Nord. Rallentamenti per lavori tra Salonicco e Modena Nord in entrambi i sensi di marcia, e restano sul tratto Brescia-Padova, sempre della 1, rallentamenti tra Ceprano e Ponte Corvo per un cantiere in fiamme in direzione di Napoli. Anche sulla 4 Roma-Napoli, chi proviene da Padova avanza in coda tra Brescia Centro e Brescia Centro per lavori. Per chi viaggia in aereo a Malpensa, il volo Alitalia da Salonicco delle 16:45 arriverà. Il numero verde arriverà, delle arriverà. È una follia pura, non so chi l'ha fatto, si è messo lì a prendere pezzettini mescolando località. È molto bello il casello, cos'è, di Brescia Nord, tra Brescia Nord e Salonicco. Immaginate questa autostrada tra Brescia e Salonicco. Ma c'è una località in particolare di questi notiziari. Io voglio che all'800240024 mi chiami qualcuno da questa località. Io penso che è il Elton John abbia dedicato proprio a questa località uno dei suoi pezzi più famosi. Che canzone meravigliosa, certo che quando poi la cantò ai funerali di Lady Di piangevamo tutti. Candle in the Wind, che vuol dire candela nel vento, e tra candela e caglianello c'è sempre il vento, stando ai notiziari del traffico. Quindi Elton John ha dedicato questa canzone a Marilyn Monroe, oppure a questo tratto di strada in cui io non sono mai andato, ma voglio sapere da voi, veramente tra candela e caglianello c'è sempre il vento? Non si sa. Però ho in linea Manuela da Milano. Pronto Manuela? Ciao Tommaso. Ciao Manuela, tu chiami da Milano, sei stata a Usmate Velate, cosa hai fatto? No, mai, per carità. Io sono stata in un piccolo paese dell'Appennino Tosca Emiliano che si chiama Bari. Come si chiama Bari? Bari. Sì, Bari. Ok. Perfetto. Proprio a 35 km da Pistoia, 55 da Bologna, sì. E oltretutto ha un bellissimo lago artificiale, dove si può fare surf, si può andare in canoa, si può anche nuotare volendo, però ci sono dei lucci un po' incattiviti e quindi può essere anche pericoloso. Cioè, quindi scusa un momento, c'è gente che non va appunto, cioè va nella spiaggia per vedere gli squali, potrebbe andare a Bari, ci sono i lucci, il risultato sì, è lo stesso. Si sopravvive, è come gli squali. No, assolutamente. Ci sono tantissime castagne. Sì. Come ci sono tantissimi boschi, è un piccolo paese di circa 100 anime d'inverno che si anima un po' durante l'estate, perché tutte le persone che nel periodo della guerra si sono trasferite, chi a Bologna, chi a Firenze, chi a Pistoia, chi in Liguria, chi in Francia, chi in Svizzera per lavoro, rientrano con le famiglie a passare l'estate, quindi da generazione in generazione ci si ritrova un po', no? Io ho 55 anni, quindi ho tantissimi amici che ho ritrovato lì, dove passo magari una parte della mia estate, mio figlio ha conosciuto figli di amici con i quali ha stretto amicizia e così via dicendo. Che dire, è un posto che molto dire. Tranquillo. Quindi, tu mi stai convalidando la mia tesi, cioè meglio andare in un paesino molto piccolo piuttosto che andare a fare, perché sai cos'è, tu mi hai raccontato appunto che a Bari ci sono i lucci che sono un po' aggressivi, mi hai raccontato delle piccole storie che però possono farti pensare tante cose. Io se devo incontrare uno che mi dice sono stato a Barcellona sulle Ramblas, lo prendo giù a schiaffi, perché mi racconta le stesse cose che raccontano tutti e a me nulla dà più fastidio della banalità. Grazie, guarda Manuela, l'unica cosa dimmi. Che ti volevo dire, Bari è anche un po' famoso perché è molto vicino a Pavana. Ah, beh, certo. Che è Toscana. Sì. Mentre Bari è Emilia. Sì. Quindi a Pavana dai Natali, anche se non li dà, comunque lui ci abita, Francesco Guccini. Cioè, infatti, giusto per la cronaca. Va bene, ci sono tante belle cose da vedere. Giusto per dire, andate a Bari ed evitate Pavana se non sopportate Guccini. No, grazie. Grazie Emanuela. Oh, grazie a te. Ti chiudo perché c'è Elisa con una breaking news dalla provincia di Milano. Pronto Elisa? Pronto? Sì, qual è la... Buongiorno Tommaso. Ciao, hai una notizia importante da darmi. Sì, molto, io sono nata a Usmate Velate. Caramba, che sorpresa. Caramba, che sorpresa. Quindi tu confermi che a Usmate Velate la tangenziale finisce senza un segno, senza un ceppo, senza niente? Assolutamente, finisce la tangenziale, prosegue con una strada che si arrampica sopra un cavalcavia e poi va verso l'Ecco, Lomagna e poi l'Ecco. Ma tu sei nata, scusa, tu sei nata, precisiamo, io a Usmate nata, o a Velate? Dunque, il comune è a Usmate, sì. Velate, dove sono nata io nel 54, è una frazione di Usmate. Ah, ecco, quindi abbiamo capito che quanti abitanti hanno? Non è che rischia di essere cancellata anche Usmate, no, Velate? No. No, no, ha più di mille abitanti, Tommaso, per cui siamo tranquilli che Usmate Velate rimarrà per sempre, sia nella geografia sia nei comunicati del traffico. Grazie Elisa, finalmente abbiamo trovato qualcuno che è nato a Usmate Velate, però io ce l'ho già stato a Usmate Velate, voglio qualcuno che, no, anche a Portonaccio, che è questa località dentro Roma, una zona di Roma terribile, devo dirla, terribile, una delle zone più brutte del mondo, perché i romani quando vengono a Milano dicono ah che città grigia, che città brutta, che città grigia, però dicono che Roma è bellissima, infatti è bella Roma dentro le mura aureliane, ragazzi, ma fuori Portonaccio c'erano questi sfasciacarrozze, un'atmosfera pasoliniana terrificante. Vabbè, che ne dite, passiamo al primo ospite perché è già pronto. Abbiamo parlato prima con una delle ascoltatrici, guarda caso, di persone sfollate durante la guerra, e ho proprio un ospite al telefono, prendo le note informative, che è legato ancora alla Seconda Guerra Mondiale, perché lui è nato comunque in Austria. Da Vienna fugge per sfuggire agli nazisti, essendo di famiglia ebrea, fugge in Italia, e anche in Italia poi, dopo la promulgazione delle leggi razziali, deve scappare e nascondersi. Quindi questo ragazzino nato a Vienna cosa deve fare? Deve andare in un paesino che si chiama Ospedaletto, provincia d'Avellino, che a quei tempi, piena Seconda Guerra Mondiale, era ancora fermo praticamente all'Ottocento. Il libro si chiama Il bambino nel paese del sole e lo ha scritto Eric Lamet. Pronto, Eric Lamet? Sì. Oh, grazie per essere alla bella estate. Allora, una storia molto particolare. Un bambino nato a Vienna che vive in questa città tra palazzi bellissimi, in un ambiente di un certo livello, a un certo punto, per le brutte questioni di una brutta storia, si ritrova a Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, al confino. Sì. Che esperienza, è stata un'esperienza difficile per un bambino trovarsi in un posto così diverso da Vienna? Beh, per me, come dico in molti casi, per me tutto questo che è accaduto a noi, dal cominciare dal 38 fino al 43, per me un ragazzino di 8-10 anni era un'avventura, perché poi anche coloro che leggono il libro vedranno che io mi ero affiatato con degli allievi militari italiani, il cui tenente mi dava il piacere di sparare la mitragliatrice e cose di quel genere, che per un ragazzo di 10-11 anni era una cosa avventurosa. Particolare. I rapporti invece con la popolazione di Avellino, cioè di Avellino, di questo paesino in provincia di Avellino, come erano? Come siete stati accolti? Il pericolo lo vedeva più mia madre che io. Non so perché lei sentisse questo pericolo, perché a dire la verità, da quando eravamo in Italia, cioè a cominciare anche dal 38, noi non sapevamo nulla di quello che stava accadendo nel ramo tra i tedeschi e l'Europa orientale. Quando poi siamo andati a Ospedaletto eravamo completamente al buio, perché non avevamo né radio, né giornali, né riviste, niente. Ogni tanto qualcuno ci dava delle notizie del notiziario italiano, che era naturalmente protetto dal governo fascista, quindi si sapevano soltanto delle vittorie dell'asse, ma per esempio di campi di concentramento, ma noi non avevamo neanche sentito il nome, niente, nessun dettaglio, niente. La popolazione di Ospedaletto vi proteggeva? Eravamo protetti dal governo, lo stesso governo che ci aveva internati. Ci pagava uno stipendio che serviva naturalmente per comprare gli alimenti e pagare l'affitto. In quel periodo veramente uno non poteva comprare altre cose, perché insomma abbigliamento quasi quasi non si trovava niente nel 41, 42, 43, e naturalmente essendo a ospedaletto non c'erano teatri, cinema, quindi non spendevamo soldi per quello. Quindi mia madre è riuscita a fare piuttosto bene con quello che ci pagava il governo. Si vedeva una vita piuttosto tranquilla, insomma, in un paesino di 1800 abitanti con il quale avevamo ben poco da fare. C'erano almeno 50-60 altri internati di tutti i tipi. La maggioranza erano di paesi che Mussolini considerava nemici dello Stato, quindi inglesi, francesi, polacchi, russi, eccetera. Dopo la guerra sei tornato in quel paese o no? E sono tornato io personalmente, perché noi avevamo veramente delle amicizie molto, molto attaccate, di vicini di casa che io sono andato a trovare, e anche ogni tanto andavo a portare qualche amico oppure mia moglie a vedere il paese. Poi 3 anni fa sono tornato a Ospedaletto con un sacco di musica eccetera che mi hanno fatto un cittadino onorario, quindi adesso sono cittadino onorario di Ospedaletto d'Alpinolo, provincia d'Avellino. Grazie, ciao a Eric Lamet, ciao. Ciao. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana. Purtroppo Battiato è fissato con queste località assurde. Tosè, ma dov'è Tosè? I treni di Tosè, ma con tutti i treni che ci sono qua all'Ambrate, lui va fino a Tosè. Io sono un po' troppo legato forse a una situazione meno esotica, ma Battiato a volte esagera. Valerio dalla provincia di Reggio Emilia. Pronto? Sei a Tosè? Dove sei? No, sono a Campigine in corrispondenza del casello Campigine Terre di Canossa, che è una new entry, diciamo. Ecco, esatto, il casello Terre di Canossa è nuovo, perché quando vado a Bologna prima non c'era, adesso c'è. Sì, non mi ricordo di preciso, ma sarà un annetto e mezzo che c'è. Sì, da pochissimo, quella è un'autostrada che riserva veramente sorprese, per esempio c'è il ponte di Calatrava anche. Sì, è proprio lì a Reggio il ponte di Calatrava. Esatto, ma dove avete trovato i soldi? Perché avete chiamato Calatrava per un ponte? Ma lei non sa, si vede che volevano fare una... Perché prima il casello dell'autostrada di Reggio era riconoscibile da due enormi bulloni che ci sono sulla sinistra, diciamo, venendo da Bologna, e si vede che hanno voluto cambiare un po' punto di riferimento, insomma, loro hanno fatto sta vela di Calatrava. Vabbè, comunque no, a me piace molto, fra l'altro. Allora, sì, infatti. Senti, ma in questo paese, Campesine, non Campesine, perché nei notiziari del traffico spesso sbagliano, lo sai, Valerio? Campesine. Dicono anche Venaria, invece di Venaria. Dicono, sì, sai, Venaria, per piccina che tu sia, loro hanno questa mentalità. Cosa c'è a Campesine? Dei campi, dei maiali. Beh, già abbastanza, dai, un panino comunque viene fuori. Sì, assolutamente. E poco altro. Tu ci consigli di andare quindi a Campesine? Ma vi consiglio, diciamo, di uscire da Campesine e andare verso le terre di Canossa, quindi di andare verso la collina, perché la bassa è un po' impegnativa, bisogna essere abituati, perché la bassa reggiana non è proprio, ha un fascino, diciamo, apprezzare. E soprattutto non ha ricezione la bassa reggiana. Grazie comunque a Valerio. C'è un ecco, guarda caso, ci sono delle informazioni importantissime e urgenti sul traffico. Traffic information by Nippon Denki Glass. Se siete in coda a Tokyo saranno state informazioni molto utili, ho voluto fare un piccolo scherzo. Queste sono le informazioni del traffico di una radio giapponese, e una delle poche parole di giapponese che mi ricordo di quei 3 mesi di corso che avevo fatto, poi sono scappato perché l'insegnante era pazza, è appunto quello che dice scusi, e lo mettono sempre in fondo alle frasi, e infatti la giornalista che sta leggendo dice sempre quella parola come per scusarsi degli intralci che ci sono per strada. Vabbè. Gentile. Gianluca da Trieste. Ciao carissimo Tommaso, buonasera. Ciao Gianluca, buonasera a te, buonasera, sono ancora presto, ancora presto. Comunque, dove sei? Io sto lavorando, sono un conducente d'autobus e ti ascolto ogni giorno mentre lavoro, con l'auricolare ovviamente. Ah ecco, mi raccomando, perché sennò poi non si sa mai, danno la colpa a me se poi succede qualcosa. Tu stai andando in un paese minuscolo del Friuli, leggo. Sì, non sono ancora sono in vacanza, ma parto fra qualche giorno e questo paesino si chiama Anduins. Anduins. Anduins, ed è sconosciuto anche tra i friulani, per farti capire. Quanti abitanti ha? Tutto il comune, che sono diversi paesi, fanno circa 800 abitanti. Quindi io non so bene qual è il numero della cancellazione, quindi è a rischio cancellazione anche lui? No, non si sa. Sì, perché è sotto i 1000. Ah, guarda, sotto i 1000, quindi bisogna fare qualcosa per salvarlo, perché sennò... Sta per scomparire in tutti i sensi. Ma cosa c'è lì, ad Anduins, cosa c'è? Beh, più che altro cosa non c'è. È quello che mi interessa, tutto. Cioè quando mi dici non c'è nulla io sono felice, cosa c'è in quel paese? Niente, ah, allora ci vado, è la mia meta preferita. No, diciamo questo, sono rimaste poche abitazioni e ancora meno abitanti. Negli anni scorsi, diciamo fino a 20-30 anni fa, era un po' famoso nel Friuli. Come perché mai? Avevano l'acqua solforosa e quindi era una piccola meta, diciamo, termale. Ah. Poi si sono dati la zappa sui piedi, nel senso che hanno fatto dei lavori, diciamo, a livello di canalizzazioni, che ha deviato questo corso d'acqua che era sotterraneo, e praticamente hanno perso la vena di quest'acqua solforosa, adesso è rimasto solo un piccolo rivoletto. E quindi non ci va più nessuno? Quindi pochissime persone. A livello commerciale ti posso dire che c'era un solo albergo che ovviamente ha chiuso, e poi è rimasto un solo bar. Sì, che ovviamente ha chiuso. No, è ancora aperto. C'è per poco. Accanto c'è il negozio di alimentari. Sì. E praticamente quando uno va al bar, c'è una sola persona che ci lavora e uno si prende il caffè. Dopodiché, se decide di andare a comprare qualcosa nel negozietto di alimentari, passa dall'altra parte e si vede arrivare lo stesso personaggio di prima, cioè il barista, che tramite una porta di servizio è passato accanto nel negozio. Ma è meraviglioso, dopo in privato mi dai l'indirizzo esatto, le indicazioni, voglio assolutamente trasferirmi lì. Grazie Gianluca. Grazie a te, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo il tempo per la Hit Parade, è un po' che non me la faccio sentire. Hit Parade del 2009. Hit Parade! Numero 10, Manos al Aire, Nelly Furtado. Numero 9, Lala Song, Bob Sinclair e Sugar Hill Gang. Numero 8, Poker Face, Lady Gaga. Numero 7, Fly Height, Shaggy e Gary Nesta Payne. Numero 6, Billie Jean, Michael Jackson. Numero 5, Not Fair, Lily Allen. Numero 4, When Love Takes Over, David Guetta e Kelly Rowland. Numero 3, Domani, Artisti Uniti per l'Abruzzo. Numero 2, Thriller, Michael Jackson. Numero 1, indietro, Tiziano Ferro. No, io sono cattivo, ma non al punto da farvi sentire Tiziano Ferro, quindi la chiudiamo qui, toglilo, mi dà fastidio, un insetticida, qualcosa. Oh, grazie, finalmente. No, via. Che venga la ruggine su Ferro. Borsa! La bella estate. Nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide fra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Ai tempi quando uscì questa canzone nessuno sapeva dove fosse San Marcanda. Oggi con i low cost tutti ci vanno, ci tornano, come se fosse andare al mercato sotto casa. Vabbè. Vecchione ci aveva regalato questa piccola dose di esotismo, però Vecchione aveva anche inciso un album qualche tempo dopo che si chiamava Calabuig. Calabuig era anche il nome di un film in cui si parlava di questo paesino inventato in Catalogna dove aveva trovato rifugio uno scienziato. Era una bella storia, un film degli anni 50. Il paese naturalmente non esiste, era stato girato da un'altra parte vicino a Valencia, figuriamoci, spacciata per Catalogna. Ma oggi dobbiamo parlare più che di Samarcanda, di Calabuig, ovvero dei paesini più piccoli, non dei paesi più grandi, e soprattutto dei paesini più piccoli che vogliono restare tali, non quelli che vogliono fregiarsi di appellativi. Sentiamo cosa diceva Alberto Sordi a Vittorio De Sica in un film che a me piace molto, che era Il Conte Max. Grazie signor Conte, durante le mie vacanze farò tesoro delle sue lezioni. Hai già scelto il posto dove passare il Capodanno? A Capracotta. A Capracotta? Mai sentito nominare? È il paese del nonno, signor Conte. È un paese turistico, alta montagna, bello, eh? Lo chiamano la piccola cortina degli Abruzzi. Sara, ma questo nome è Capracotta? Beh, certo, viene da capra. C'è Capracotta e Caprarola. Sono paesi di caprai. Però, signor Conte, vi assicura che è una vera cortina in miniatura. Tu hai mai visto cortine? No. E allora perché dai dei giudizi? Prima vede, poi dai dei giudizi. Senti a me. Scusi, ha ragione, signor Conte. A me piacerebbe molto viaggiare, conoscere gente più elevata di me. Ma lei sa la mentalità di mio zio. È il tranviere e me manda Capracotta. Il tranviere lo manda Capracotta. Capracotta e Caprarola. Però la piccola cortina degli Abruzzi, siete mai stati anche lì? 800 24 0024. Fate come ha fatto Massimo, che mi ha appena chiamato per darmi una notizia sconvolgente. Pronto Massimo? Eccomi qua, ciao. Avanti, ciao. Rivela a tutti quello che hai fatto in vita tua. Sono andato a Teser. E hai visto i treni? I treni, allora io la stazione di Teser non l'ho vista. Perché non c'è? Perché non c'è la stazione? E come a Matera? Però c'è l'aeroporto. Ma mica poteva dire gli aerei di Teser, scusa, quelli passano. Infatti, no, poi io ci sono andato in macchina comunque. A Teser? A Teser, ma... attraversando, perché praticamente Teser è l'ultima città prima che inizi il deserto del Sahara. Ah. E quindi viene chiamata quella città lì come le porte del Sahara. È come Usmate Velate, dove finisce la tangenziale, lì invece finisce il deserto. Esattamente uguale, in realtà è Nafta dove finisce la strada e da lì in poi c'è il deserto, che Nafta è un paesino appena dopo Teser, ma è un paesino piccolo, mentre Teser è una città insomma bella grande, adesso non so quanti abitanti farà, ma penso 20.000 di Afra. Ah, quindi non rischia la cancellazione per colpa della finanziaria Teser? No, senti, no. Dici almeno cosa sei andato a fare, a vedere i treni, cosa hai fatto a Teser? Sono andato a fare, adesso qua scoppiava la curiosità, sono andato a fare una roller marathon, che è una gara di pattinaggio a rotelle in linea sulla sabbia, una maratona praticamente. Ma sulla sabbia? Nel deserto. E le rotelle come facevano ad andare sul... È la domanda che mi fanno tutti. Beh, scusa, uno se lo chiede, cioè già ti vedo lì insabbiato e fermo. No, invece si fa sull'asfalto ovviamente, però queste strade, è presente queste strade in mezzo al deserto dove c'è il nulla, c'è solo l'asfalto, la lingua d'asfalto infinita, tu vedi all'orizzonte e vedi solo la strada, e tu continui a camminare e ti sembra di essere sempre lì. È come qua in Viale Famagosta a Milano, identico praticamente, c'è questa viale diritto, non vedi altro. Vabbè, grazie Massimo, è stata comunque una notizia, Teser esiste, è viva e lotta insieme a noi. C'è Mauro che mi chiama da Roma e mi sa che mi vuole parlare di Portonaccio. Pronto Mauro? Buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ciao, allora. Io a Portonaccio ci lavoro, penso un po'. Dove? Esattamente al deposito dell'azienda dei trasporti pubblici di Roma, io sono dirigente della Trambus. È vero. Vedo che c'è il venticello a Roma che si sta portando via, c'è un vento fortissimo. Io sto tornando a casa in bicicletta, cerco di spostarmi, trovare un posto dove Così. Non c'è il vento o dove sia più riparato. Non so, ecco, adesso ti sento meglio. Allora, sai perché io conosco Portonaccio? Perché c'è l'uscita dell'autostrada? No, perché mi hanno messo in un albergo lì l'anno scorso. Mamma mia, povero te. E io per avere un tono così un po' più esotico lo chiamavo Porto Nachos, che sembrava un po' messicano, e dicevo, poi quando uscivo mi trovavo queste baracche. Guarda, non dirlo a me che qui sono stato trasferito, io ero prima in un altro deposito anni fa, che purtroppo ha chiuso, sono stato trasferito, ahimè, qua e... E ne stai soffrendo ancora? Sì, onestamente sì, non c'è praticamente niente, cioè qui ci sono solamente palazzi di edilizia popolare degli anni 60-70, strada grigia, parlavi prima di Milano, città grigia, questa è una zona proprio grigia, e a parte il nostro deposito e la stazione Tiburtina praticamente non c'è nulla. E quello è lo strano, che capisci, a un certo punto finisce via Tiburtina e comincia il nulla. Esatto. Tu dici, ma Roma dove è finita? Non si sa, all'improvviso scompare. No, proseguendo arrivi al cimitero del Verano. Sì, andando da quella parte, ma invece sì, se andando verso stanno facendo proprio il tom tom qui. Vai al Verano, vai a San Lorenzo, vai da quelle parti. Invece andando giù per Portonaccio, verso l'albergo in cui mi avevano messo, poi subito ho chiesto il trasferimento perché avevo gli incubi di notte. Guarda, sono 3 anni che io gli sto chiedendo. Senti, faremo girare una petizione. Per favore, portate Mauro via da Portonaccio. Non può restare. Datemi il deposito, io lo chiedo. Datemi il deposito di Tor Vergata, vicino a casa mia. Ecco, a Tor Vergata. Grazie, Mauro. Un saluto a te e buona continuazione di programma. Ciao anche a te. Ciao, ciao. Macron. Un'altra petizione che farei girare è per riformare i Pizzicato Five, che si sono separati tempo fa, purtroppo. A me piacevano tanto. Invece Tiziano Ferro continua a cantare, i Pizzicato Five no. Tokyo, località esotica. Quanti andate a Tokyo, poi tornate e mi dite: sono stato a Shibuya. E vabbè, sapere quanto mi... vabbè. Piero, dalla provincia di Forlì Cesena. Pronto? Buongiorno, ciao Tommaso. Ciao, tu non sei stato a Tokyo? Io vengo molto più vicino in Italia. Ah, ecco, sentiamo. Alfero, un paesino all'ombra del Monte Fumaiolo, sì? Che Mussolini, dovrei dire una stupidità, ma nel 22-23 spostò i confini della Romagna per incorporare in Romagna la sorgente del fiume Tevere. Ah, e quindi cosa fece? La tolse le Marche praticamente? No, la Toscana. Fumaiolo era sotto la Toscana. Mussolini, per fare la sorgente del Tevere sul Monte Fumaiolo, spostò i confini della Romagna incorporando il Monte Fumaiolo, che adesso il Monte Fumaiolo è Romagna, non è più Toscana. Ah, non è più stato restituito come la Gioconda? No, infatti è quello che mi sto chiedendo. Come mai la Toscana, meglio, va bene per noi romagnoli, via. Non diciamolo, se non diciamo niente, dai, siamo in pochi a sentirlo, rimanga fra me e te, via. Ma domenica, sì? Il giorno di Ferragosto, sì? C'è stato un paio dei somali, dei ciuzzi. Ah, una degli sinelli, sì. È stata una cosa, non ho capito se chi era più somale, il driver o la due zappe o quello qua. No, ma scusa, dimmi una cosa, Piero, li hanno trattati bene? Perché gli asini sono degli animali. No, loro quando si puntano è proprio il puntare, col bisogna cavolo fare che così. Andavano avanti, puntavano e il driver doveva scendere a tirarlo proprio, e lui col cavolo. Imparassero a fare era così. Più intelligente lui del driver, certo, no, hai capito? Imparassero a fare così anche i cavalli del Palio di Siena, altro che i cavalli morti. No, quella è una cosa, guarda, lo consiglio a tutti di andare a vedere, perché c'è da sbraccarsi, cioè i cavalli, vederli cadere ti si sparte il cuore. Lì invece cadono i driver perché il somaro non ne vuole sapere, punta proprio, guarda, da... una cosa eccezionale, veramente. In quel caso lì è proprio l'animale che comanda il driver, non è il driver che sforza l'animale. Esatto, se lui non gli va, non lo fa. E non lo farà mai. Lo fa. Per tutta la vita dalla parte degli asini, dei somari, alla dei ciuchi. Grande, alla grande, alla grazie, grande, Piero. Anche se è uno ferma dalla parte dei somari, ma è così. E viva i somari. Ma anche quelli umani. Grazie Piero, ciao. Ti ciao. Okay, ciao. C'è un sms che arriva penso da Battiato stesso, che dice che i treni di Toser in realtà non sono treni reali ma un miraggio dovuto alle esalazioni in estate di un lago salato presente fuori delle città nel deserto. Ricordo qualche anno fa le Ferrovie dello Stato, Trenitalia, fece una campagna pubblicitaria enorme dicendo: ah, devo andare a trovare la zia a Frosinone, il nonno a Vicenza e il papà a Matera, per fortuna c'è il treno. E risposero: ma a Matera non c'è neanche la stazione, come può esserci il treno? Ecco, evidentemente risposero: sapete, ci sono i miraggi dei laghi salati. La distruzione dei paesetti è una delle tante trovate del Necchi, che in questo tipo di invenzioni è meglio di un Guglielmo Marconi. Odiometro, teodolite, livello di stagge. Di qua, tutto giù, via. Voilà. La sud, cavalca via. La matta. Obiettivo. Da questa parte, due colline da schianare. Pronta la livella? Prendiamo misure con teodolite. Posso cominciare? Sì, segni le case da battere. Bene. D'accordo. Ma che la fanno costruito? 114. 114. Zac e zac. Qui, tutto giù. E niente bulldozer. O dinamite. Tritolo. Zac, zac. Zac, Zac. Per favore. Anche la chiesa è sistemata. Mi dispiace. Caro assessore, ordine della regione. Ma che succede? Chi siete? Ma come? Non lo sa, reverendo. Di qua passerà l'autostrada delle Ginestre. Questa è la direzione. E lì ci sarà un grandissimo svincolo per la tangenziale est. È l'ente regione. Oh, madonnina del signore. Abbiamo saccheggiato Amici miei quest'estate, ma ha sempre dei pezzi che si addicono perfettamente a ciò di cui parliamo. Fra l'altro, voi non lo sapete, ma io i temi di La Bella Estate li ho scelti praticamente un mese fa, un mese e mezzo fa. Non è che li invento il giorno prima. Stranamente, la realtà, i fatti, la cronaca, poi si avvicinano a quello che facciamo noi. Non ho deciso di parlare di paesini perché nella finanziaria si parla di cancellare alcuni paesini. È stato un caso. Però potrebbero prendere spunto da Amici miei, andare lì appunto e distruggere la distruzione dei paesetti, è un'idea del Necchi, dovrebbe farsi pagare anche i diritti d'autore. C'è Sabrina, dalla provincia di Milano. Pronto Sabrina? Sì, ciao Tommaso. Ciao Sabrina. Ciao, io chiamo praticamente dallo svincolo di Cormano. Io non sono, come capirà dall'accento, appunto sono più vicina a Amici miei che a Milano. Infatti mi sembra un'introduzione interessante. È perfetta, tanto per è perfetta, sincronica. Sì. Io tutte le volte quando torno a casa a Prato mi dicono: ma dove abiti? E io dico: sullo svincolo di Cormano. E cioè, tutti allora piangono? Abita a Cormano. No. Dice, ma allora abita a Cormano? Dico, no, abita a Milano, perché lo svincolo di Cormano entra praticamente al Max Meyer, sì. Quindi sull'estrema periferia nord, sì. Nel quartiere Comasina, che ha dato i natali a Valanzasca, no? Per rimanere in temi d'attualità. Avete messo una lapide? Cosa avete messo? No, basta quello ci ha lasciato. No, però devo dire la verità, io sono tornata alle 3, alle 4 la notte, quello che non fa la polizia lo fanno gli altri. Cioè, un livello di sicurezza che la Svizzera ce lo invidierebbe. Alla Comasina? Sì, sì. Te puoi girare la notte tranquillo, non ti succede niente. Stai scherzando? Sì, davvero. Ah, va bene, perché, mi fido. Sì, perché quello che, diciamo, il quartiere deve essere un uso tranquillo, non tanto per il bene degli abitanti, ma per il bene di quelli che hanno i loro traffici. I loro? I loro traffici, sappiamo un po' a Milano. Ah, traffici, sì, i sì, traffici, scusa. Sì, no? Allora, loro non vogliono confusione, non vogliono polizia, quindi l'unica maniera è mantenere l'ordine. Ah. Quindi se vai tranquillo, puoi parcheggiare la macchina, non ti succede niente. Se trovi posto. Anche perché per arrivare a Cormano, da quello svincolo di cui tu mi stai parlando, bisogna prendersi due giorni di ferie, perché c'è sempre una coda spaventosa. Sì, perché c'è la vecchia Comasina o la Milano Meda. Ma anche quando tu arrivi appunto da Torino-Milano? Sì, arrivi da Bergamo, arrivi da Torino, comunque c'è da farsi il segno della croce, perché ti dici tutte e cinque le poste del rosario prima di arrivare a destinazione. Hai mai pensato di comprare un elicottero? No. Però ho pensato di prendere i mezzi quando hanno aperto la metropolitana. Ecco, questa è un'ottima idea, usate sempre i mezzi quando ci si muove in città, come faccio io che adesso sto per uscire di qui, perché abbiamo finito anche oggi, di andare a prendermi la mia metropolitana che mi porterà all'auto e poi dall'auto a casa. Abbiamo concluso, bene. Oggi c'era una regia particolare, non so se l'avete notato, perché non c'era Mauro, ma c'è Roberto Scaltritti, che ringrazio, poi c'era Viola Bottone in redazione, che ringrazio. Noi torniamo domani, il tema di domani sarà: ti giuro, ho visto un UFO. Tutte le cose più strane che avete visto nei cieli estivi, bene, ne parleremo domani con ufologi e un cantante che non voglio dirvi niente. A domani.